E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. ...2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 31 luglio e 1 agosto 2010. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale 2024 e radio24.it. Anche questa puntata sarà disponibile sul nostro sito internet attraverso il servizio podcast. Sono già migliaia i nostri ascoltatori abbonati gratuitamente al servizio podcast di Radio 24 e vi ricordo che la nostra puntata sarà disponibile entro pochi minuti al termine di questa trasmissione, sarà disponibile il file MP3 di 2024. Notizie della settimana, poi il nostro approfondimento. Sono iniziate pochi giorni fa a Roma e provincia le trasmissioni sul digitale terrestre di Europa 7 con un pacchetto di 11 canali a pagamento, di cui 7 in alta definizione e un canale gratuito. Nei prossimi giorni verranno attivate anche altre province. E la cosa interessante è che Europa 7 trasmette con la nuova tecnologia DVB-T2, utilizzata per la prima volta in Italia, ma che per essere visualizzata, per sintonizzare i canali, sarà necessario un nuovo decoder. Questa tecnologia permette di comprimere il segnale a parità di qualità, quindi permette un uso più efficiente delle frequenze, però come dicevo ci vorrà un nuovo decoder che si va ad aggiungere alla lunga lista di decoder che oggi sono disponibili sul mercato. Pensate, ci sono quelli per il satellite, quelli per la IPTV, quella via internet, per il digitale terrestre tradizionale, quelli per l'alta definizione, eccetera eccetera, ma la lista è lunga, come abbiamo detto più volte. Un'altra notizia riguarda l'accordo fatto anche in Italia tra la SIAE, la più popolare piattaforma per i video su internet, cioè YouTube, dove finora molti video utilizzavano illegalmente la musica. La parte economica dell'accordo non è nota, ma secondo indiscrezioni ogni volta che un utente vede un video musicale o un video accompagnato da un brano, la piattaforma, che dal 2006 appartiene a Google, dovrebbe generare alcuni millesimi di euro all'autore del brano ascoltato su YouTube. Naturalmente anche in questo caso vale la regola dei grandi numeri, sono talmente elevate le visualizzazioni di video su YouTube che quindi anche una cifra così bassa dovrebbe generare introiti molto interessanti per gli autori, almeno quelli più noti e famosi. Dal 2011 tutti i telefonini venduti nell'Unione Europea dovranno essere ricaricati con uno stesso tipo di trasformatore basato sulla connessione micro USB. Lo hanno confermato, la notizia non è recente, ma la conferma, potremmo dire, della settimana, l'hanno confermato pochi giorni fa fonti della Commissione Europea, secondo le quali il lavoro di adattamento normativo e tecnico si concluderà a breve, quindi tutto dovrebbe essere pronto per il prossimo anno. Anche la Apple dovrà quindi adattarsi a questa normativa e sicuramente avrà una micro USB l'iPhone 5, che dovrebbe arrivare giusto fra un anno. Per ora in Italia è disponibile da poche ore, potremmo dire, la versione 4 dello smartphone. Allora, per parlare dell'arrivo che utilizzato un copione classico, cioè file davanti ai negozi, ma forse un copione che non ha funzionato fino in fondo questa volta, dicevo, per parlare di questo è con noi Massimo Morandi, il nostro esperto di telefonia mobile, direttore di Cellulare Magazine e di Smartphone Magazine. Massimo, bentornato 2024. Ciao Enrico, un saluto a tutti. Partiamo dalle prime ore. Allora, abbiamo detto che l'iPhone 4 è arrivato anche in Italia. In questo caso noi siamo stati inseriti nel gruppo B tra i paesi in cui è stato diffuso il telefono. Devo dire che è strano, perché normalmente quando parliamo di telefonia mobile l'Italia è sempre considerata uno dei primi paesi dove far uscire il prodotto, anzi forse un paese test. È vero, hai detto bene, un paese test, proprio per tutte le caratteristiche di diversità che ha rispetto agli altri paesi d'Europa e del mondo. Subito dopo l'estate vedremo ad esempio Nokia col suo nuovo smartphone N8, che esordirà per primo nel nostro paese prima che in tutte le altre regioni del mondo. Quindi questo sicuramente ci fa molto piacere. In questo caso invece siamo stati messi nel gruppo B, prima l'America, poi l'Inghilterra, poi la Francia e poi noi. Come hai detto tu, non è andato proprio tutto secondo copione. Perché? grandi file come sempre davanti agli store ufficiali, ai negozi dei gestori che lo commercializzano, ma pochi pezzi. Il marketing della privazione di Apple, che ama dare pochi pezzi e ingolosire i consumatori ma non soddisfarli tutti al primo giorno, questa volta ha un po' esagerato, ha un po' forse esagerato, perché si parla addirittura che i negozi ufficiali avessero 500 pezzi, quindi che sono pochi per... sono molto pochi, sono andati esauriti in poche ore, e chi ha fatto la fila per nulla, si è trovato senza poter neanche mettere le mani su un iPhone. Tra l'altro prima sono andati esauriti subito i modelli da 32 giga, è rimasto qualche pezzo da 16 giga, quindi anche lì chi aveva deciso di voler comprare il modello con più memoria spesso si è ritrovato o nulla o il modello con minor memoria. Diciamo che alcuni, almeno così ci hanno raccontato alcune persone che sono andate di persona negli store di Carugate e di Roma, che sono quelli ufficiali in Italia, e oltre a fare la fila hanno fatto anche quasi a botte, perché insomma qualcuno è stato deluso in maniera anche un po' forte. Senti, diciamo due cose sull'iPhone 4 per chi si è perso le puntate precedenti. Stiamo parlando di uno smartphone che sostanzialmente ha le caratteristiche di un classico smartphone touchscreen, quindi anche degli iPhone precedenti. Quali sono le novità più interessanti, insomma, le cose diverse? Ma guarda, le cose diverse sono innanzitutto la confezione, l'estetica, la scocca, che poi vedremo ha dato anche qualche problema, quindi completamente rinnovata sia nel look sia nel materiali. Il display, questo display Retina, che è un display molto molto bello, molto luminoso e che consente anche un po' di risparmio sulla batteria. Una fotocamera che finalmente porta i 5 megapixel anche sull'iPhone, e poi un nuovo sistema operativo, iOS 4, che naturalmente continua l'innovazione dei sistemi operativi precedenti e quindi dà la possibilità di fare molte molte cose in più. Questo è anche il famoso sistema operativo che permette di essere multitasking, giusto? Consente di essere multitasking, quindi di fare più cose allo stesso tempo, di aprire più applicazioni, di averne altre in background, cose che l'iPhone 3GS non faceva, permetteva ancora. La possibilità di dividere gli applicativi o comunque i propri contenuti in cartelle, quindi eccetera, tante eccetera. Cose nuove. Sì, potremmo parlare per ore delle caratteristiche tecniche, ma insomma, gli appassionati sanno già tutto e forse sanno più di noi. Insomma, poi se qualcuno vuole saperne di più, ci sono mille risorse su internet, a partire dal sito ufficiale, dal vostro, di Cellulare Magazine, per conoscere le caratteristiche. Dicevamo dei problemi, e questo per capire se il nuovo prodotto sarà o meno un successo è un elemento importante da tenere in considerazione. Ci sono stati negli Stati Uniti, poi vedremo se anche in Italia ci saranno questi problemi, alcuni difetti, un difetto in modo particolare, insomma, di cui si è parlato molto appunto in America, dovuto, tu dicevi, al design, cioè la tecnologia in qualche modo si è dovuta adattare al design e è nato un problema di ricezione. Cioè, spieghiamo di cosa. Ma sì, questa è sicuramente la genesi della storia, anche se poi ufficialmente questo non verrà mai ammesso. Il problema fondamentale è un problema di ricezione. I primi acquirenti dell'iPhone si sono accorti che impugnando il telefono la ricezione scendeva, le tacche che indicano la ricezione scendevano repentinamente rispetto a quando il telefono stava su un tavolo. Si è scoperto che l'antenna dell'iPhone 4 è posta nella parte bassa sinistra del telefono, proprio dove lo si impugna, proprio dove si impugna il dispositivo. Sì, in modo particolare con la mano sinistra. In modo particolare i mancini che chiudono completamente l'antenna con il palmo della mano quando lo impugnano. E in realtà questo difetto poi è stato prima un po' negato dalla Apple, poi ammesso pubblicamente, ne è seguita una conferenza stampa in cui Steve Jobs, cofondatore e CEO del gruppo americano, ha detto: sì, abbiamo capito che c'è un problema, però lo stiamo risolvendo. In realtà la prima risoluzione è stata quella di consentire da oggi fino al 30 settembre a tutti i clienti che non fossero soddisfatti di restituire l'apparecchio, di avere indietro i soldi, con in più un regalo di una custodia in silicone che funziona da isolante, in modo che la mano non schermi più il segnale dell'antenna. Una custodia molto molto sottile che calza perfettamente sul telefono e che verrà regalata a tutti coloro che comprano l'iPhone. Tra l'altro, è bene ricordare, non viene consegnata in negozio insieme all'iPhone, ma viene poi richiesta online e viene consegnata direttamente agli acquirenti. Diciamo che per molti è stato strano vedere e osservare questo difetto, di cui appunto si è parlato molto negli Stati Uniti, perché nella maniacale perfezione alla quale siamo abituati, alla quale l'Apple ci ha abituato, appunto, è una cosa abbastanza inedita. Chissà che cosa è successo ad alcuni ingegneri alla Apple, cosa che non sapremo naturalmente mai. Ricordiamo che questo è un prodotto sicuramente molto atteso, che almeno dalle prime ore, anche dalle prime informazioni che abbiamo avuto dagli Stati Uniti, ha fatto un buon successo. Poi bisognerà vedere se questo difetto inciderà sull'andamento nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, e anche sull'andamento del titolo nei prossimi mesi, nelle prossime trimestrali. Quanto costa? Perché questo è un elemento un po' interessante. Allora, come al solito, quando esce l'iPhone ci sono mille modi di poterlo acquistare. Sì. Naturalmente, diciamo innanzitutto che l'iPhone può essere comprato o in un Apple Store, comunque liberamente, senza vincolo di alcun operatore, pagato dal primo all'ultimo euro, €779 la versione a 32 giga e €659 la versione da 16 giga. Quindi una roba che costa un bel po' di soldi. Esatto. Poi ci sono 3 operatori su 4 che lo vendono con diverse formule e promozioni, che sono TIM, Vodafone e Trenitalia. Quindi diciamo che se uno si abbona o comunque ha una ricaricabile con questi operatori, può addirittura anche non pagarlo con un abbonamento. Questo è l'ultimo caso che hai fatto, è il caso di H3G, che offre il telefono a €0, naturalmente sottoscrivendo un piano. Si paga il piano, si paga un tot di minuti prepagati, e in questo caso si paga anche un tot di navigazione prepagata, perché è bene ricordarlo, l'iPhone, come i più recenti e evoluti smartphone, funzionano sempre connessi a internet, quindi è bene sempre acquistare, se c'è già nel piano bene, o acquistare se no un piano internet che permetta di avere un monte dati da spendere per non ritrovarsi poi brutte sorprese in bolletta. Puntata di 2024, questa è la versione estiva molto più leggera di solo mezz'ora di 2024 per tutta la nostra estate. Potete scriverci una email se volete, se preferite, a 2024@radio24.it. Nelle prossime settimane vi offriremo alcune delle interviste più interessanti andate in onda durante l'anno. Oggi ci dedichiamo invece all'iPhone 4, perché da poche ore è disponibile anche in Italia, per fare anche il punto della situazione. Tra le altre notizie che riguardano l'iPhone ce n'è una che arriva dagli Stati Uniti. Prima di raccontarvi questa novità facciamo un passo indietro e ricordiamo che quando parliamo di smartphone parliamo di telefonini che hanno un sistema operativo e sui quali possono essere installati software che nel caso di telefoni chiamiamo normalmente applicazioni, un po' come succede sui computer. Però succede che spesso questi software vanno acquistati, o comunque quando sono gratuiti vanno scaricati da particolari negozi, da particolari piattaforme. Nel caso dell'iPhone, dall'iTunes, che è la piattaforma e il negozio virtuale della Apple, è anche un vero e proprio software. In questo modo la Apple gestisce e controlla tutti i software che possono essere installati su questo telefonino. Beh, c'è una novità appunto che arriva dagli Stati Uniti. Massimo, che cosa è successo questa settimana? Allora, negli Stati Uniti è successo che un'organizzazione no profit di avvocati legali che operano per la libertà digitale, anche per la libertà di stampa e di parola, ha chiesto al Congresso degli Stati Uniti di togliere, diciamo, l'illiceità al lucchetto digitale che chiude l'iPhone e, come dicevi tu, non permette di installare software di terze parti se non certificato da Apple, se non presente sullo store di Apple. Quindi diciamo che se io faccio un software, lo propongo alla Apple e l'Apple non me lo passa, non me lo approva, quel software non può essere installato. No, non gira, ma soprattutto non può essere installato prima che non gira. Sì. A meno che io cosa faccio? A meno che non con dei software appositi non si aggiri questo lucchetto digitale messo nel telefono e quindi non si apra completamente il telefono, non lo si lascia completamente aperto, cosa che però fino ad oggi in America non era lecito. Cioè, fino all'altro ieri. Fino all'altro ieri era illecito. Oggi invece, questa è una notizia che potrà poi avere delle importanti conseguenze anche nel resto del paese, il cosiddetto jailbreak, quindi questa apertura del lucchetto digitale in America è stata dichiarata lecita, quindi si può fare. Perché si può fare? Perché comunque ci deve essere libertà per tutti per mettere la propria applicazione, per lavorare, per arricchire, diciamo, il parco di software di questo nuovo telefono. Attenzione, questo è quello che è stato detto in America. In altri paesi vigono altre legislazioni, nel nostro paese questo è considerata un'infrazione del diritto d'autore. Ma perché è importante questo cambiamento? Perché ci sono già degli store come Cydia, ad esempio, non ufficiali. Quindi negozi non ufficiali dove però si possono scaricare software su telefoni, in questo caso l'iPhone, ma ad esempio anche l'iPad, a cui sono stati tolti i lucchetti elettronici. E ci sono nuovi software, ma perché c'è la lotta da parte del produttore, o c'è stata la lotta per non consentire questa apertura del lucchetto digitale? Perché è vero che così facendo si possono installare nuove applicazioni, ma si può accedere a un'area del telefono da cui poi cambiare la velocità del processore, ad esempio, comunque intervenire in zone dove il produttore preferisce non si intervenga, perché poi si potrebbero anche causare dei danni a catena. Certo, anche perché diciamo che Apple ha sempre sostenuto che così facendo, cioè tenendo il telefono protetto e molto controllato, questo garantisce anche all'utente una certa fluidità di operazioni, diciamo, che garantisce che il telefono funzioni molto bene. Ed è anche questo è il problema per cui la parola fine a questa storia non è stata ancora messa, perché Apple ha subito detto: d'accordo, accettiamo che si possa togliere questo lucchetto digitale, ma chi lo farà non avrà più diritto alla garanzia in caso di guasto. La cosa interessante, e forse la cosa alla quale guardare, è il mercato del software, perché dall'arrivo dell'iPhone e poi dall'arrivo anche di Android si è sviluppato un vero e proprio mercato, un ricco mercato del software. Quindi tanti produttori, anche piccoli produttori, li abbiamo avuti ospiti a 2024, che sono o cresciuti o addirittura sono nati grazie a questa rivoluzione degli smartphone. Quindi un mercato del software che è esploso, che sicuramente crescerà nei prossimi mesi, che fino a questo momento è stato, diciamo, controllato, comunque ha avuto un imbuto per cui tu produci software, però devi passare attraverso, e tra l'altro devi lasciare anche un po' di denaro ad Apple. Cosa potrebbe succedere? Perché questo è lo scenario interessante. Ma gli scenari naturalmente sono tanti. Quelli più interessanti sarebbero gli scenari degli store indipendenti, dove si può trovare ogni tipo di software, dove non si deve passare, se mi passi il termine, dalla censura, anche, che è stata posta da alcune aziende in passato su alcuni tipi di software. In realtà questo avverrà molto lentamente. Io penso che soprattutto dal telefono oggi la cosa fondamentale per far funzionare il discorso dei software, degli applicativi, sia avere una direzione in cui andare, un click da fare, un pulsante da schiacciare per poi avere accesso a un enorme store con un grande parco software. Tra l'altro molti pensano che i software siano solo giochi. In realtà in passato è stato così, oggi ci sono applicativi per qualsiasi momento della nostra vita, da quello che ci controlla tutti i PIN e i numeri delle carte, la gestione delle carte di credito, a software per le previsioni del tempo, a software che addirittura ci porta le notizie di un giornale direttamente sul nostro display. Quindi veramente ci si sta sbizzarrendo, e questa è la grande ricchezza futura. Non solo i dispositivi, che dovranno essere naturalmente sempre dei buoni dispositivi evoluti, con buoni display, ottima capacità di navigazione e buona esperienza utente, ma tante cose che serviranno ad ognuno per personalizzare il telefono a seconda delle sue esigenze. Android. Allora, abbiamo per tanto tempo detto che la Apple con l'iPhone e con lo stretto legame che c'è tra il sistema operativo dell'iPhone e la macchina vera e propria, quindi l'hardware e lo smartphone, questo ha garantito una superiorità tecnologica all'Apple. Oggi le cose non sono più così, perché è cresciuto un concorrente che è Android, il sistema operativo per smartphone promosso da Google, che si installa non su un tipo di telefono solo, ma su una varietà. Mi pare che ci siano 60 tipi di telefoni nel mondo che fanno girare Android, se non sbaglio. Ma penso sia giusto, questo è un numero tra l'altro che è destinato a domani mattina a essere già mutato. E questa è la grande forza di Android, piattaforma per tutti. Oggi, a pochi mesi diciamo dal suo vero battesimo, abbiamo Samsung, abbiamo HTC, abbiamo LG, ma abbiamo anche nomi minori che stanno arrivando nel nostro paese e negli altri paesi europei grazie... Anche Acer, se non sbaglio. Acer, Alcatel, grazie ai bassi costi della piattaforma Android. Quindi la possibilità anche per il consumatore, perché poi è giusto sempre vedere il pezzo finale di questo discorso, certo, di avere telefonini, smartphone in grado di fare tante cose, multimediali a basso costo. Stiamo parlando addirittura di dispositivi che andranno sotto i 100 euro. Quindi, incredibile. Su una piattaforma solida, anche qui tutta basata, completamente basata sul touchscreen, quindi si comanda con un dito. Come esattamente come l'iPhone, come una grande quindi esperienza d'uso molto facili e che danno tra l'altro dei plus importanti anche rispetto all'iPhone, perché poi i giornali americani in questi giorni si sono proprio sbizzarriti nel cercare di dire ecco perché Android potrebbe essere meglio dell'iPhone. Si sono un po' divertiti a fare una sorta di paragone tra le due piattaforme. E tipo dove hanno puntato il dito? Ma sicuramente la prima cosa è quella che abbiamo appena detto, tanti brand e non solo... Quindi una grande scelta di telefoni. Supporto di flash, ad esempio, non ne abbiamo parlato. Ah sì, questo è importante. La possibilità di avere flash, quindi navigazione internet. Sì, ricordiamo che flash è un software, è un sistema di programmazione. Molti siti hanno delle applicazioni basate su flash e con l'iPhone o con l'iPad, se io vado su certi siti internet, non riesco a visualizzarli per bene, ma anche siti molto famosi, molto noti. Android e Google ha sempre detto noi sosterremo Flash, beh, anche perché insomma la concorrenza richiede questo. Ti faccio una domanda sull'usabilità, perché voi provate in laboratorio decine di telefoni tutte le settimane, tutti i mesi, i telefoni basati su piattaforma Android più evoluti, insomma anche più costosi naturalmente, che tipo di esperienza utente hanno rispetto all'iPhone? Che differenza c'è, se ancora c'è una differenza? Guarda, mi fai una domanda che apparentemente è facile, ma è difficilissima, perché poi molto molto significa quali dispositivi abbiamo usato fino ad oggi. Nella nostra stessa redazione spesso non siamo d'accordo su questo. Io ti posso dire in maniera assolutamente indipendente che le due piattaforme sono veramente arrivate ad un punto pari. Naturalmente poi giocherà sempre una preferenza personale nel come la piattaforma stessa organizza i contenuti, i software, la navigazione, sia internet che la navigazione classica GPS, ma in realtà queste sono due piattaforme che offrono un'esperienza d'uso straordinaria, facili da usare. Chi anche non ha mai usato un telefonino riuscirà a farlo nella maniera più intuitiva possibile, e quindi sarà una bella lotta, perché comunque Android, questo forse si può dire, sta sviluppando molto molto in fretta, quindi i passi che sono stati fatti in questi anni, le distanze sono state accorciate, ora si parte alla pari e sarà bello vedere chi a questo punto partirà per lo sprint, perché ripeto, tante piattaforme, ma queste due in questo momento sono quelle che stanno tirando veramente il mercato. Bene, io ringrazio Massimo Morandi per essere stato con noi. Massimo, buon lavoro e anche buone vacanze, a presto. Grazie, un saluto a tutti. E così concludiamo anche questa puntata di 2024. Vi ricordo che a breve sarà disponibile il file MP3 della nostra trasmissione attraverso il sito internet di Radio 24, www.radio24.it. Cosa ancora più semplice e facile è utilizzare un software per la gestione del podcast e andando a prendere l'indirizzo che trovate nella sezione podcast del nostro sito internet, in quel modo potete abbonarvi gratuitamente al nostro servizio. Così facendo potrete scaricare settimana dopo settimana il file MP3 di 2024 in maniera automatica. Sono già migliaia le persone, i nostri ascoltatori che lo hanno fatto, che si sono abbonati, che appunto utilizzano sul proprio lettore di file MP3, oppure alcuni si masterizzano un CD, lo ascoltano in autoradio, insomma altri si trasferiscono il file sul proprio smartphone. Gli utilizzi sono legati alla fantasia. Se avete difficoltà, scriveteci una mail a 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, grazie come sempre per la vostra attenzione. Noi torniamo la prossima settimana, sempre con questa versione estiva e leggera di 2024. Un buon ascolto con i programmi di Radio 24. You are disconnected.